vogliamo accomodarci. Oggi insieme come Chiesa vogliamo far nostra una festa, una celebrazione che non abbiamo indetto noi, ma che è stata indetta dall'ONU. Le Nazioni Unite hanno queste giornate mondiali, lo sapete, no? Per sensibilizzare su tematiche diverse, e il 1 giugno hanno deciso che sia la giornata mondiale dei genitori. Giornata mondiale per celebrare il ruolo dei genitori, giornata mondiale per sensibilizzare al valore della genitorialità e dell'educazione attraverso i genitori, perché i genitori hanno il ruolo fondamentale, unico, insostituibile di educare i propri figli. E quando abbiamo visto insieme il calendario di Chiesa, con la squadra che organizza i vari eventi che abbiamo come Chiesa, abbiamo visto questa data come una data che è bellissima da poter onorare, perché ricalca, non perché ci piace così tanto l'ONU, ma perché ricalca la parola di Dio. La parola di Dio dice di onorare i genitori. La parola di Dio dice di ubbidire ai nostri genitori. La parola di Dio ci mostra che questo è stato il comandamento che Dio ha affidato al suo popolo. Quando Mosè è salito sul Monte Sinai e ha incontrato faccia a faccia Dio, in quell'occasione Dio, fra gli altri comandamenti, il 5° comandamento che dà è: onora tuo padre e tua madre. Quindi abbiamo visto questa celebrazione, abbiamo detto sì, questa la possiamo celebrare e in questa ci possiamo unire a tutto il mondo. Se il mondo vuole celebrare questa cosa, noi più di loro. Amen. In Efesini, al capitolo 6, vorrei che leggessimo insieme questo verso. C'è scritto, ci sono scritte queste parole: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Quindi l'apostolo Paolo riprende quello che è il comandamento che troviamo in Esodo 20 e lo riporta alla chiesa in Efeso, e poi aggiunge: onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa. È proprio così. Mentre la maggior parte dei comandamenti dice non fare questo, non fare questo, e se fai questo succede quest'altro, questo è un comandamento unico, straordinario, che non dice cosa non fare, ma dice cosa fare, e ci dice di onorare tua madre e tuo padre e tua madre affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Non è meraviglioso? La parola di Dio è la nostra guida. Noi vogliamo fare la volontà di Cristo Gesù. E quindi oggi vogliamo celebrare tutti i genitori che sono in mezzo a noi. Quindi se sei un genitore, io ti chiedo di alzarti in piedi e vogliamo fare un applauso a tutti i genitori, neo mamme, neo papà, che ce ne sono tanti, genitori già stagionati, che insomma sono avanti negli anni, ora sono anche nonni. Vogliamo farci un applauso, perché vedo che la maggior parte è in piedi, quindi ci facciamo un applauso. E grazie per quello che fate. Grazie per il ruolo che ricoprite. E il Signore vuole benedirci in questo momento, vuole darci la forza di essere genitori secondo la sua volontà. Quindi vogliamo pregare per tutti i genitori che vedo qui in piedi. Siete bellissimi, siete tutti molto molto belli. Padre, io benedico i genitori nella nostra Chiesa. Nella nostra Chiesa io prego che ogni genitore possa essere benedetto e guidato da te. Con nuove forze, nuova sapienza, nuovo discernimento, e in modo particolare voglio pregare per ogni genitore maggiore pienezza dello Spirito Santo. Riempi questi tuoi figli, Padre, con la pienezza tua, affinché possano saper fare, saper dire, saper agire e reagire nel modo opportuno in ogni circostanza. E Padre, li benediciamo e ti ringraziamo e li onoriamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Io voglio chiedere a qualche genitore, abbiamo qualche genitore di adolescenti? Sai che i tuoi figli sono adolescenti? E poi posso vedere la tua mano, dove ti trovi? Ecco, ne abbiamo alcuni. In fondo anche, vogliamo fare un particolare applauso a questi genitori, stanno affrontando una fase non facile. Chi è che ha almeno un figlio adolescente? Dei genitori che hanno alzato. Chi è che ha due figli adolescenti? Doppio applauso per voi. Qualcuno ha tre figli adolescenti? No, nessuno. Posso rivedere le mani di chi ha due figli adolescenti? Clarissa, e poi vedevo Fabrizio e Roberta, voi vi considerate genitori di due adolescenti? Di tre, valgono a doppio. Io ho portato con me un regalo così simbolico, lo voglio dare a Clarissa, perché è un regalo che forse può tornare utile. Questo è utile per ogni genitore, in modo particolare per i genitori di figli adolescenti. È un antistress, ok? Quindi il mio incoraggiamento più grosso è: passa oltre lo stress, il Signore è con te, e quindi schiaccia questa pallina e vai avanti. Facciamo un applauso a Clarissa. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Se c'è un supporto che i genitori hanno bisogno, non è solo quello celebrativo, quello in preghiera, ma è il supporto che viene dai figli. Allora io voglio chiedere, se sei figlio, ovviamente siamo in tanti, però siamo tutti figli ovviamente, però io voglio chiedere, se sei figlio e vivi ancora in casa dei tuoi genitori, e quindi sai di dover essere un particolare supporto per loro, puoi alzare la tua mano, dove ti trovi? Voglio vedere le mani di coloro che, soprattutto me l'aspettavo nella seconda fila, e quindi vi ringrazio per quello che fate, per quello che significate, ma voglio incoraggiarvi, per voi è questo verso, lo possiamo riproiettare? Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore. Ubbidite quando è facile, quando è difficile. Onorateli quando risulta semplice. Onorateli quando risulta particolarmente difficile. Amen? Siete d'accordo, Chiesa? Vogliamo fare un applauso a tutti i figli che sono in mezzo a noi. Ora, noi abbiamo pensato per questa occasione di parlare di genitorialità, ovviamente essendo la celebrazione dei genitori a livello mondiale, vogliamo parlare di essere genitori, di educazione, di famiglia, di matrimonio. Queste sono tutte tematiche che vogliamo affrontare, però ci siamo resi conto che la domenica non è la sede migliore, abbiamo poco tempo per affrontare troppe tematiche, e quindi abbiamo pensato di realizzare più produzioni video che metteremo su YouTube, ok? Quindi a partire da domani possiamo collegarci sul canale della Chiesa Pieno Vangelo su YouTube e troveremo dei contenuti. Vogliamo vedere insieme la promo che ci offre anche tutti i titoli delle varie tematiche che verranno affrontate attraverso questi video già prodotti, che a partire da domani verranno pubblicati su YouTube. Vediamo insieme la promo. Bene, quindi a partire da domani, e domani si parte con è nato un genitore, perché quando nasce un figlio nascono anche dei genitori, affronteremo proprio l'essere neo-mamme e neo-papà. E sto guardando Michael in questo momento, perché lui è un neo-papà in mezzo a noi, ed è un'avventura straordinaria quella di diventare papà, di diventare mamma. E a partire da domani ci saranno dei contributi. Io credo che ognuno dei contributi che Dio ci ha dato grazia di realizzare sono prima di tutto un incoraggiamento per tutti i genitori, però poi offrono anche degli strumenti validi per vivere la genitorialità. Quindi di cosa parliamo oggi? Visto che da domani ci sono varie tematiche che verranno affrontate anche con una certa profondità e spaziando in lungo e in largo, oggi di cosa parliamo? Beh, oggi io voglio condividere con voi un messaggio che può incoraggiare tutti noi, che tu sia genitore o tu sia figlio, che tu sia un marito o sia una moglie, o sia anche un ragazzo, una ragazza single, qualsiasi sia la tua condizione, Dio vuole incoraggiarti questa mattina considerando le relazioni. Quando parliamo di genitorialità, stiamo parlando di famiglia. Quando parliamo di famiglia, non possiamo escludere l'essere marito-moglie. Quando parliamo di essere marito e moglie, non possiamo escludere il fatto che tutto questo ci parla di relazioni. E io oggi voglio parlare con voi di relazioni, perché è una tematica fondamentale. Parlare di genitorialità, parlare di matrimonio, parlare di famiglia e parlare di relazioni è molto semplice. Parlare. Viverle è tutto un altro conto, è vero? È un'esperienza estremamente sfidante. Le relazioni sfidano ciascuno di noi. Le relazioni sono ciò che mettono in risalto tutti i nostri difetti. È come vedere una piscina e credere di saper nuotare. Ed essere un esperto nuotatore. Poi ti cali in quella piscina e ti rendi conto di essere un pesce fuor d'acqua. Ovvero di essere incapace di saper nuotare. Perché faccio questo esempio? Perché quando ero adolescente mi ricordo vagamente se erano le scuole medie o i primi anni delle superiori, avevo questo sogno nella mia mente. Io ho sempre avuto il sogno di essere un atleta di successo e quindi ora sognavo di essere un calciatore, ora un ciclista, e in questa fase della mia vita ho sognato di essere un buon nuotatore. Mi sono appassionato di nuoto, mi sono appassionato di piscine, mi sono appassionato dell'idea di essere un buon nuotatore, dell'idea di saper fare vasche con una certa padronanza. E più fantasticavo, più mi convincevo che ero un abile nuotatore. E c'è stato questo programma che è stato offerto dalla scuola per chi era incline alla capacità di nuotare. E quindi venivano classe per classe, prendevano i nominativi di persone che già sapevano nuotare, persone che avevano già il brevetto di nuoto, per formare una squadra di nuotatori eccellenti. Io non avevo il brevetto, io non sapevo di non saper nuotare, ero convinto di saper nuotare e ho dato il mio nominativo. Ho detto sì, io sono un nuotatore, posso entrare in questa squadra. E quindi siamo andati, era bello, è stato organizzato questo pulmanino. Io ho alzato la mia mano, ho dato il mio nominativo, soprattutto perché era un corso gratuito, era un'opportunità gratuita di andare in piscina. E lo ricordo ancora, era a Ruvo di Puglia che ci portarono alla piscina a Ruvo di Puglia e lì già cominciai a notare delle leggere differenze con quelli che erano i miei compagni di classe e di scuola. Tutti avevano un costumino che era nettamente diverso dal mio. Io mi ero presentato con le bermuda, quelle che andavano oltre le ginocchia, quelle che si usano, sai, in spiaggia quando vuoi fare la persona ganza, no? Con dei tasconi enormi, e gli altri invece avevano tutti il costumino, quello da nuotatori. Ma la differenza più grande c'è stata quando ci siamo immersi nell'acqua. È lì che con ogni sforzo e con ogni tentativo ho cercato di stare dietro al gruppo a fare quelle che erano le vasche di riscaldamento. Mi ricordo che questo insegnante disse: fate 3 vasche di riscaldamento. Per me quella era di sfinimento. Mi ricordo che ho bevuto tanta di quell'acqua che non ho avuto sete per i prossimi giorni. La piscina deve essere abbassata di livello per tutta l'acqua che ho bevuto. E a quel punto, dopo le 3 vasche di riscaldamento, io sono uscito, sono andato in doccia e non ci ho più riprovato. Non ero all'altezza di nuotare. A volte è proprio così. Diventare genitori, vivere le relazioni, vivere la famiglia, pensare alla famiglia, proiettarsi nell'avere una famiglia. Tutti noi siamo capaci di fantasticare il matrimonio perfetto, la famiglia perfetta, e ci rispecchiamo nella famiglia del Mulino Bianco. Ve la ricordate quella pubblicità? Tutti immaginiamo che un giorno vivremo quel tipo di immagine nella nostra vita. La realtà è molto diversa. La realtà è fatta di conflitti, la realtà è fatta di conflitti e di disaccordi, conflitti che producono ferite e ferite che producono rotture, rotture che determinano separazione, distacco e tanto dolore. Questa è la realtà. E non è una realtà che sto descrivendo distante da noi, è una realtà che riguarda la mia e la tua vita. E prima ce ne rendiamo conto, meglio è. Le relazioni non sono materia facile. Le relazioni non sono qualcosa che possiamo fantasticare, immaginare e credere di saper vivere fin quando non le cominciamo a vivere. Che cosa ci dà speranza nelle relazioni? Cosa offre a noi la speranza oggi di poter dire: io posso fare la mia parte? Io posso riuscire ad andare oltre determinate ferite. Io posso permettere allo Spirito Santo di guidarmi in modo tale che determinate ferite non producano rotture e rotture non producano dolore su dolore nella mia e nelle future generazioni. Vedete, l'opera diabolica nella nostra società è proprio quella di rompere, di distruggere, di ammazzare, di separare, di disunire, di allontanare. E quindi quello che poi molti di noi si ritrovano a fare quando si tratta di relazioni è uscire da quella vasca. E tutti siamo molto bravi a vivere le relazioni quando scegliamo di non viverle più. È vero? Tutti noi tendiamo all'isolamento, tendiamo al distacco, tendiamo a trovare la scorciatoia per i nostri matrimoni, la scorciatoia in famiglia, che è quella di non affrontare più determinati conflitti. E ci ritroviamo al bordo di quella piscina a guardare l'impossibilità di vivere una vita immersi in quell'acqua, soli, pieni di ferite e in una condizione di dolore. È una brutta descrizione, lo so, però è quello che viviamo. Oggi però noi non vogliamo considerare solo ciò che è rotto, ciò che il diavolo ha potuto portare nelle nostre vite, non vogliamo vedere solo a quello che è una impossibilità di ripristino, noi vogliamo guardare alla speranza che abbiamo in colui che guarisce, in colui che unisce, in colui che riporta pace, in colui che è capace di ripristinare in noi armonia e ordine. Chi è questo colui? È Cristo Gesù. Qual è la risposta alla domanda come essere un buon genitore? Qual è la risposta alla domanda come essere un buon marito? Qual è la risposta alla domanda come essere una buona moglie? Qual è la risposta alla domanda come essere un buon figlio? Qual è la risposta alla domanda come vivere delle sane relazioni di qualsiasi tipo? La risposta è la stessa e sarò ripetitivo anche questa domenica ed è una preghiera che dice non la mia volontà ma la tua sia fatta, Cristo Gesù. Questa è la risposta. La prima richiesta nella preghiera che ci viene presentata quale modello di preghiera da parte di Gesù è la risposta alla nostra domanda. La preghiera che dobbiamo imparare a fare, fratelli, sorelle, amici, è non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E dietro questa richiesta, questa preghiera, c'è un mondo di supporto, un mondo di forza, un mondo di potenza che viene direttamente dal regno dei cieli. È Dio che vuole intervenire nella mia e nella tua vita per renderci capaci di affrontare ogni situazione, ogni relazione con successo. E quando dico successo, non intendo dire che quella relazione andrà per forza nella direzione giusta e quel tuo figlio, quel tuo marito, quella tua moglie cambierà. Tu non hai il potere di cambiare l'altro. Io non ho il potere di cambiare l'altro. Ve ne siete resi conto? Sì, quando sono piccoli i bambini puoi imporre ed è più facile, più bello, Michael, avrai tanti anni che ti stanno davanti, che saranno un'occasione per istruire, per ammonire, per far fare, per farti ubbidire, ma a un certo punto realizzerai, in quella fase dove hai bisogno dell'antistress, che non sei tu che puoi cambiare l'altro. Ma Dio, in tutto questo, ad offrirci un'altra risposta. Gesù, nei nostri conflitti e nelle nostre relazioni difficili, ha un'altra risposta da offrirci. Quando noi chiediamo a Lui, cambia l'altro. Lui ci offre la risposta, l'altro non lo posso cambiare, ma posso cambiare te. Qualche giorno fa abbiamo letto insieme il Sermone sul Monte, è vero? E il Sermone sul Monte è il manuale di istruzioni che il nostro Maestro di vita, Cristo Gesù, il nostro Re e Signore, ci affida per poter vivere le relazioni. E sintetizzando quello che Lui dice nel Sermone sul Monte, Gesù ci sta dicendo: tu non puoi cambiare l'altro e l'altro non deve cambiare affinché tu sia cambiato. Anzi, proprio nel peggio che gli altri hanno da offrirti, tu hai la possibilità di offrire il tuo meglio. Nel tuo essere genitore, Dio ti dà la possibilità non solo di portare educazione, di portare disciplina, di portare un discepolato, un vero e proprio discepolato nei confronti dei tuoi figli, ma quello che il Signore sta facendo attraverso soprattutto quelle fasi di vita dei tuoi figli che sono particolarmente difficili è modellare te. Nel tuo matrimonio tu non puoi cambiare tua moglie, non puoi cambiare tuo marito, e lo torno a ripetere, oggi sarò ripetitivo perché vorrei che tutti abbracciassimo quello che è il messaggio di Cristo Gesù, e Cristo Gesù ti dice in questo momento puoi però scegliere di essere modellato attraverso i conflitti e le stagioni difficili del tuo matrimonio. E Gesù insegna e dice: se uno ti percuote sulla guancia, porgigli anche l'altra. A chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Che silenzio. A casa forse non lo percepiscono, per questo lo descrivo, è un silenzio pazzesco quello che c'è in sala oggi. E io credo che questo silenzio è perché lo Spirito Santo in questo momento ci sta convincendo di peccato. E ci sta riportando alla considerazione che anche quando il nostro prossimo ha il peggio da offrirci, Gesù ci invita sempre ad offrire il meglio di noi stessi e a non prendere mai quale giustificazione a portare il peggio di noi quando altri ci fanno un torto, quando altri ci percuotono, quando altri ci derubano, quando altri ci feriscono. Vuoi guarire, vuoi seguire il Maestro nella tua vita? Sii disposto a fare la preghiera, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Quanti matrimoni si salverebbero? Quante famiglie sarebbero ancora unite? Quante relazioni funzionerebbero meglio se noi facessimo nostre queste parole? E quando dico facciamo nostre queste parole, non sto dicendo che l'altro lo deve fare. Io lo devo fare. Non posso aspettare che sia Giorgia a porgere l'altra guancia e a dimostrare un atteggiamento sano, idoneo, in linea con il sermone sul monte, per offrirgli io la mia seconda guancia. Non è quando l'altro è perfetto che noi dobbiamo essere perfetti. Non è quando l'altro offre il meglio di sé che noi dobbiamo offrire il nostro meglio. Gesù ci sta dicendo attraverso il sermone sul monte: quando l'altro offre il peggio di sé, tu offri il meglio, perché questo è il suo esempio. Gesù ha offerto il meglio di sé quando noi abbiamo dato il peggio di noi. Quando noi lo abbiamo preso in giro e non aveva ragione di essere preso in giro. Quando noi l'abbiamo percosso e non aveva ragione di essere percosso. Quando noi l'abbiamo torturato e l'abbiamo appeso a una croce, dico bene noi perché sono i nostri peccati che lo hanno portato in quella posizione. Quando noi lo abbiamo tradito, quando noi lo abbiamo abbandonato, quando noi abbiamo dato il peggio di noi stessi, lui ha dato il meglio di sé e ci ha amati fino all'ultimo. Se ti stai chiedendo come posso vivere bene le relazioni, come posso nuotare bene in quella vasca, allora fai tuo l'insegnamento del sermone sul monte. Gesù dice: benedite quelli che vi maledicono. Gesù non dice: benedici chi ti dice bene, benedici chi ti benedice. Gesù dice: benedici colui che ti maledice. Gesù su quella croce, dopo essere stato preso in giro, dopo che le persone gli hanno detto: se sei Dio, scendi da quella croce, lui che fa? Dice: Signore, perdonali. E prega per i suoi nemici. Gesù oggi invita tutti noi a fare la stessa cosa. Nei confronti non di chi ci vuole bene, dice bene di noi, ma nei confronti del nostro peggior nemico, che ha critiche e ha parole che feriscono il nostro cuore e che ci distruggono. È lì che impari a nuotare. Quando in ginocchio preghi e dici: Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta anche nelle mie parole. Quanti matrimoni si salverebbero se solo avessimo il controllo, l'autocontrollo delle nostre parole? Quante relazioni si ricucirebbero e guarirebbero se noi avessimo la capacità di guidare la nostra lingua a non rispondere come uno specchio a quello che ci viene buttato addosso, ma a fare la differenza e ad essere come Cristo? Gesù dice nel sermone sul monte: tutti le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. E questa è chiamata la regola per eccellenza. Vuoi che qualcuno faccia qualcosa nei tuoi confronti? Falla tu prima a loro. Cosa vorresti che il tuo prossimo faccia? Come vorresti che l'altro si comportasse? Il matrimonio, la famiglia, la genitorialità, è l'essere figli. E se volete, inserisco anche l'essere parte di una chiesa e vivere relazioni su vari livelli, sono la scuola che Dio ci offre per modellare noi stessi, non per aspettarci che gli altri cambiano. Gesù dice ancora: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Il perdono. Quello che ci viene descritto nel Sermone sul Monte è un'attitudine nelle relazioni che prevede autocontrollo, nelle reazioni, che prevede un linguaggio che è di benedizione, un comportamento che prevede il fare agli altri quello che vorremmo che sia fatto a noi, è un comportamento che offre perdono, che offre grazia. A chi devi offrire grazia stamattina? A tuo figlio? A tua figlia? Molto probabilmente. Se sono adolescenti, forse più volte al giorno. A chi devi offrire grazia? A tua moglie, a tuo marito? A chi devi offrire grazia? A un fratello qui presente in chiesa? A chi devi offrire grazia e perdono? Il Signore dice: se tu lo fai agli altri, allora il tuo rapporto con me sarà ben saldo, ben ripristinato e tu godrai del mio di perdono. Capite quanto è importante? Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo vivere un tempo di preghiera? Voglio chiedere a tutti noi di chiudere i nostri occhi. E mentre ci concentriamo su Dio, su quello che Lui è capace di fare in noi, io voglio ricordarci il Sermone sul Monte e quella predicazione che Gesù rivolge alle folle, rivolge a noi come Chiesa oggi. Quale mezzo per essere e fare la differenza in una società rotta, distrutta dall'odio, dalle guerre e dai conflitti? E ascoltatemi bene, il Sermone sul Monte ha nel suo mezzo proprio le istruzioni sulla preghiera. E proprio al centro del Sermone sul Monte noi troviamo che Gesù ci invita a pregare. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E proprio al centro del Sermone sul Monte Gesù dice: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E proprio al centro del Sermone sul Monte Gesù dice che chiunque chiede a Dio lo Spirito Santo, Dio glielo darà. Non c'è nulla di quello che ho descritto questa mattina che noi possiamo essere capaci di fare nelle nostre forze. Non c'è nulla di quello che abbiamo considerato insieme oggi del Sermone sul Monte che è dato a noi da fare con le nostre capacità, con le nostre strategie, con la nostra buona volontà. Tutto questo fluisce da una richiesta fondamentale: che sia fatta la tua volontà e che dammi il tuo spirito, Padre, affinché possa vivere quella vita che tu mi insegni a vivere. Preghiamo questo insieme. Padre, tu sai quante ferite ci sono, quanti dolori ci sono, quanto il maligno ha avuto la meglio ed è riuscito a separare, a disunire. Noi non vogliamo ricorrere a mille consigli di esperti, noi vogliamo ricorrere all'autore di vita che sei tu, Gesù, per trovare in noi guarigione per trovare in te la forza per poter vivere tutto quello che ci inviti a vivere. Se questa mattina desideri con tutto il tuo cuore avere maggiore potenza da parte dello Spirito Santo per fare quello che lo Spirito Santo ti ha voluto incoraggiare a fare questa mattina, forse perdonare qualcuno, forse adottare un nuovo linguaggio, forse cominciare ad attivarti in un'azione che vede te protagonista di opere buone senza che ti aspetti che l'altro lo faccia per primo. Se questo è il tuo desiderio, io ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare per ognuno di noi. Voglio pregare lo Spirito Santo. Padre, io chiedo che il tuo Spirito possa scendere. E che nella pienezza del tuo Spirito Santo possiamo fare quello che tu ci hai dato esempio di fare. Nelle nostre famiglie, nei nostri matrimoni, nella nostra chiesa, nella società che ci circonda. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, vieni, riempi. Spirito Santo, potenzia. Spirito Santo, ristora ora. Spirito Santo, metti in noi il frutto di amore, di gioia, di pace, di pazienza. Di pazienza, di benevolenza, di fedeltà, di mansuetudine, di autocontrollo. Padre, noi abbiamo bisogno di autocontrollo. Tutti noi abbiamo bisogno di autocontrollo. E io chiedo a te, Spirito Santo, di riempirci e darci tutto questo. Vogliamo adorare il Signore.